Lezione 6. Deuteronomio, capitolo 7, versetto 6. Becha bachar Adonai Eloecha, lihyot lo le'am segula, mikol ha'amim, asher al pene ha'adama. Deuteronomio, capitolo 10, versetto 19. Wa aavtem et hager, ki gerim heitem be'eretz Mitzrayim. Deuteronomio, capitolo 4, versetto 44. Uezot ha-Torah asher sam Moshe lifne bene Israel. Levitico, capitolo 26, versetto 46. Elle ha-chukim ve-ha-mishpatim ve-ha-torot asher natan Adonai beno uven bene Israel behar Sinai beyad Moshe. Genesi, capitolo 11, versetto 1. Vayehi chol ha-aretz safa echat udevarim achadim. Due Re, capitolo 18, versetto 20. Amarta ach devar sefataim etza ugevura la milchama. Genesi, capitolo 11, versetto 10. Elle toledot Shem. Shem ben meat shana, vayoled et arpachshad. Shenataim Achar Ammabul. Numeri, capitolo 11, versetto 19. Lo yom echad tochelun, velo yomaim, velo hamisha yamim. Levitico, capitolo 25, versetto 21. Wetziwiti et birchati lachem bashana ashishit, ve'asat et attevua lishlosh ashanim. Numeri, capitolo 32, versetto 38. Ve'et nevo, ve'et baal meon, musabot shem, ve'et sivma, ve'ikreu beshemot et shemot he'arim asher banu.